Allora, qui all'Arena Civica di Milano, una delle case storiche del rugby milanese, con il progetto dell'Amatori che riparte proprio dal campo, anche se chiaramente da una situazione difficile, la Serie B, la dura penalizzazione. Panchina affidata a Mauro Vaghi, nome storico di questa società. Beh, coach, insomma, innanzitutto il passaggio dal campo alla panchina nel giro di pochi mesi, come l'ha vissuto? Beh, emozionante terminare la propria carriera quando vabbè, ti giri e dici, caspita, sono già passati 30 anni, però con la confidenza di poter continuare a respirare l'aria degli spogliatoi, a calpestare il campo, seppur da un'altra parte, ma dall'altra parte della linea di touche, ma con la consapevolezza di magari volere o potere o vedere se sei in grado di insegnare, di trasmettere qualcosa. Quel qualcosa che ho acquisito durante appunto la mia carriera rugbistica. Spero proprio di riuscire a fare, mi piacerebbe riuscire ad aiutare questa squadra, il rugby in particolare, a raggiungere degli obiettivi, insomma, gli obiettivi che ci spettano, che sono quelli di ritornare ai massimi livelli e ovviamente con un mio contributo. E poi ovviamente sarà anche una sfida per me per riuscire a vedere se sono in grado, se sarò in grado di fare quello che mi sono messo e prefissato per adesso, con l'aiuto appunto anche come abbiamo proposto nel progetto di una scuola importante come quella francese. Eh sì, tanti gli obiettivi. Il primo direi è quello di assemblare un gruppo formatosi proprio negli ultimi giorni con giocatori che arrivano in prestito annuale da diverse realtà lombarde e Extra. extra-lombarde, no? Sì, come dicevo prima, un ensemble. Non saranno culture, proviamo da culture momentaneamente rugbistiche diverse, ma credo che il rugby è uno solo, quindi l'ABC del rugby poi è quello, di conseguenza nessuno si inventa cose particolari. Poi sarà sicuramente l'amalgama e il tempo a fare il suo corso, come in ogni cosa. Si parte però da meno 20, perché insomma la gestione passata e le mancanze incidono pesantemente su questa classifica. Sì, ovviamente a questo punto non si può negare che meno 20, insomma, non è una bella posizione. Tenuto conto dello sconto di 12 punti che abbiamo ereditato, io direi che l'obiettivo in questo momento, come ho sottolineato prima, visto che è quello di ripartire, noi partiamo praticamente appunto da fermi e di conseguenza in questo momento il nostro scopo è fare una squadra e iniziare un percorso. Noi iniziamo un percorso che ovviamente sarà quello, quando si entra in campo, di non perdere e di sicuramente di non essere dominati. Poi, piano piano, credo che con gli aiuti dei giocatori, la volontà dei giocatori, con gli aiuti di altri tecnici, perché ovviamente non sarò l'unico, avrò delle collaborazioni, credo proprio che riusciremo a iniziare questo percorso, probabilmente rimanendo, salvandoci di sicuro, e per poi ripartire alla grande l'anno prossimo, che finalmente si dà tutto per acquisito e quindi si parte insomma da un altro punto di vista. Sì, almeno partiremo da zero, insomma. Un Esattamente. messaggio ai tifosi, ecco, che risposta si aspetta dalla città? Sappiamo quanto Milano viva in modo problematico il rapporto con la palla ovale, anche se poi l'attività di base è ben viva. Sì, io spero solo, vabbè, ovviamente la ricettività non è facile appunto in questa grande città. Il nostro anche progetto vorrebbe essere quello di coinvolgere più gente possibile a vedere la palla ovale in generale. Chiediamo un sostegno perché ovviamente il pubblico è sempre il sedicesimo uomo e dopodiché che una cultura rugbistica o della palla ovale si diffonda di modo che si venga tutti al campo per tifare per la propria squadra e non contro le altre squadre. Questo è il mio augurio. E poi comunque c'è sempre poi il terzo tempo per mettere a posto le cose. Quello sono secoli e secoli e di conseguenza sarà così per sempre per noi.